Effetto Mondo. But we'll make no progress and heal no wounds by falsely labeling tens of millions of decent Americans as racist or bigots. We have to get everybody together. E buongiorno a Giulia Crivelli con il nostro immancabile Trump quotidiano. Sì, ieri era Trump è andato in Texas a tenere una era una riunione con alcune persone che rappresentavano la comunità locale ed era poi a porte chiuse in una chiesa. È stata un po' la prima volta che ha apertamente parlato dei disordini e dice non cureremo alcuna ferita, we will heal no wounds, se non la smettiamo di chiamare decine di milioni di decent Americans. E qui attenzione, perché decent è un po' un false friend, come si dice, cioè non vuol dire decente ma per bene. Quindi l'idea appunto è Trump si scaglia contro chi sostiene che c'è molto razzismo in generale nella classe dirigente bianca o comunque tra gli americani bianchi. Il problema è che, e di questo parlano tutti i giornali americani oggi, che ci sono molte voci contrarie all'interno del Partito Repubblicano, perché ieri Trump ha annunciato che il 19 di giugno sì. farà il primo vero rally post lockdown, diciamo, lo farà a Tulsa in Texas, ma quella data è una data molto speciale, non è una festa nazionale, ma il 19 di giugno del 1865 il Texas aderì alla legge che metteva fine alla schiavitù, perché ogni stato a quel tempo doveva accoglierla con una cerimonia solenne. E naturalmente Trump non l'ha scelta per fare un discorso, almeno dalle anticipazioni, per fare un discorso pro minoranza afroamericana. È sembrata quasi una provocazione, tanto che ne da oggi conto il Houston Chronicle, che è un quotidiano del Texas, già a Tulsa si stavano preparando per abbattere tutte le statue dei generali confederali, cioè della quelli che si erano distinti durante la guerra civile americana, che poi ha portato all'abolizione della schiavitù. E questo Trump ha già detto che invece lui è molto contrario a questo, che non vuole che siano tolti i nomi di questi generali dalle basi americane. Insomma, non sembra voler spegnere le polemiche, ma anzi, questo è un po' il tono di tutti i commenti, dal Washington Post al New York Times al Wall Street Journal, soffia un po' sul fuoco. Hai raccolto anche un'altra voce per noi, vero? Sì, è il generale Milley, che era in tutta mimetica un uomo molto massiccio, forse qualcuno lo ricorda nelle famose foto di Trump davanti alla chiesa vicino alla Casa Bianca. C'era lui, c'era anche il capo del Pentagono, e ieri durante un messaggio per una cerimonia di graduation di un'accademia militare ha detto con un tono veramente dimesso che chiede scusa e che è stato uno sbaglio fare quella foto, perché dice le forze militari, questo è il capo dei joint military, cioè è uno dei massimi esponenti delle gerarchie militari in questo momento negli Stati Uniti, e lui dice noi militari dobbiamo tenerci fuori dall'agone politico, noi siamo al servizio del paese, non al servizio della politica. Ma sentiamo le sue parole. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. As a commissioned uniformed officer, it was a mistake. Little translation, Giulia. Dice per me come ufficiale è stato sì. sbagliato mettermi lì in quella a farmi fotografare ed è stato un mistake, perché noi militari non dobbiamo appunto impicciarci, diciamo, o comunque prendere una parte nella domestic policy, cioè nella politica interna. E il riferimento naturalmente è anche al fatto che il capo del Pentagono era entrato in aperto contrasto con Trump sull'annuncio di usare i militari per placare le proteste. Quindi insomma vedremo, perché Trump, ripeto, continua ad avere un atteggiamento un po' ambiguo, tanto che nella newsletter di Forbes che mi è arrivata qualche minuto fa c'è proprio scritto il GOP, che è il soprannome del Partito Repubblicano, che sta per Grand Old Party, il grande partito, cominciano ad esserci sempre più voci critiche. Tra l'altro il Texas è uno stato molto interessante dal punto di vista elettorale, perché fin dagli anni 60 è stato chiaramente repubblicano, però nelle ultime elezioni, sapete che il voto popolare negli Stati Uniti è disgiunto poi dal conteggio dei grandi elettori e possono non coincidere le due cose, in Texas il voto popolare è stato a favore di Hillary Clinton, poi Trump si è aggiudicato comunque lo Stato, però è interessante che scelga proprio, così scrivono i commentatori, il Texas per questo suo primo comizio post lockdown. Leggo solo questa perché mi sembra molto importante. Andrea Crisanti, poco fa: la sicurezza nelle aule scolastiche dipende anche dal numero dei ricambi d'aria, farne 5 all'ora riduce la carica microbica del 90%, invece sconsiglio le barriere di plexiglass perché ostacolano la circolazione dell'aria. Comitato tecnico scientifico, direi così, prendi e porta a casa. Ma insomma, a parte questo, Giulia, non so dove altro ci vuoi portare nell'ultima puntata della settimana. A me è incuriosito ancora il dibattito inglese sui 2 metri. Sì, il Daily Mail, che abbiamo già visto ieri, titolava fine della regola dei 2 metri perché sennò il Regno Unito va a picco. Oggi titola il 2 metri meltdown, cioè lo scioglimento della regola dei 2 metri. Tipo un ghiacciaio. Perché in effetti... esatto, perché c'è stato anche un'interrogazione parlamentare perché 3 su 4, quindi il 75% dei pub, dei ristoranti, degli hotel e in generale tutte le piccole attività che hanno a che fare con i viaggi potrebbero go bust, cioè fallire, se non si cambia questa regola. Io credo che si andrà verso questo cambiamento, così come saranno più chiare, da quello che appare sui quotidiani oggi, anche le regole per la riapertura graduale di reparti che non sono Covid, perché AI, che è questo giornale gratuito ma fatto molto bene, che viene distribuito a Londra, titola Cancer doesn't wait, il cancro non aspetta, perché è il tema che conosciamo molto bene anche in Italia, del fatto che l'accesso ai controlli per i malati cronici, anche oncologici, è stato di fatto impedito in questi mesi, e adesso naturalmente tra i tanti effetti collaterali del lockdown e del deconfinamento lento c'è questo problema di tutte queste persone che hanno bisogno di ricominciare a fare i loro controlli regolari. Fuori dall'emergenza Covid, mi segnali, in Germania code ancora del caso Maddie McCain. Sì, proprio tutti i quotidiani hanno in prima pagina Bild a caratteri cubitali questa parola tedesca composta, che è Kindesmissbrauch, cioè gli abusi sui bambini. E la Bild addirittura titola Kindermissbrauch ist wie Mord, cioè è come la morte, è come uccidere qualcuno, e credo che soprattutto se si tratta di abusi sessuali sicuramente i danni sono enormi, cioè, e quindi sulla scia dell'arresto del pedofilo accusato del rapimento e forse dell'uccisione, non l'ho ancora confessato, della piccola Maddie McCain, rapita in Portogallo dal luogo dove si trovava in vacanza con i genitori, è già stata approvata una bozza di accordo, ma la grosse coalizione è d'accordo per introdurre pene molto più severe per qualsiasi tipo di abuso sui bambini e da chiunque venga perpetrato, cioè nelle scuole, dai genitori, nell'ambiente familiare o naturalmente anche, perché in Germania questo ha fatto molto discutere, all'interno delle strutture della Chiesa cattolica. Tema confini e turismo in Spagna, mi sembra di capire, un po' come da noi, dove questa questione è molto importante. ABC, che è un quotidiano catalano molto critico sempre con Sanchez, oggi mette in prima pagina 5 capi di governo europei: Merkel, offen, aperto, Macron, ouvert, aperto, Austria, offen, aperto, aperto in italiano davanti al Premier Conte, davanti alla faccia di Sanchez c'è scritto serrado. Perché allo stato attuale, prima del 1 luglio, nessuno può andare in vacanza in Spagna da fuori, appunto, che non sia spagnolo, tranne i tedeschi alle Baleari, che già questo ha fatto un po' così arrabbiare altre località turistiche spagnole. Probabilmente anche qui arriveranno delle novità, anche perché la situazione dei contagi e dei nuovi e dei decessi in Spagna è anche migliore come tassi della nostra, quindi aspettiamoci insomma un ulteriore deconfinamento. Ok, grazie Giulia, chiudiamo qua questa puntata di oggi, ci risentiamo a partire da lunedì prossimo naturalmente con gli ascoltatori. Per quanto riguarda oggi, Valeria Bernardi in regia, Laura Faggini in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Ciao da Alessio Maurizi, buona giornata e buon weekend.